Bentrovati e bentrovate a La fuga del gatto. 18:05, puntualissima oggi, cioè veramente penso di aver spaccato il secondo, probabilmente mai sono stata così puntuale. Sono da sola oggi, in solitaria, non c'è la Virgia ad aiutarmi, ma mi riscatterò nonostante sia da sola, perché vi racconterò di Couperin, François Couperin, e parleremo in realtà poi, vi spiegherò nel dettaglio, non soltanto di Couperin, diciamo che spaziamo un pochino perché la puntata si è dedicata a lui, ma ci ascolteremo due brani, uno di, effettivamente di François Couperin e l'altro di Ravel, perché Ravel, Maurice Ravel, ha poi composto un brano, insomma una suite, poi insomma lo vedremo meglio, proprio per Couperin, influenzato e evidentemente abbagliato dall'opera di Couperin. Quindi ci ascolteremo entrambe e insomma diciamo che generi diversi, epoche diverse, ma la cosa in comune in questo caso è proprio la persona Couperin, François Couperin. Allora, Couperin, che nasce a Parigi il 1668 e muore nella stessa città nel 1733, era un compositore, ovviamente cembalista e organista anche, e vedremo soprattutto organista all'inizio, francese chiaramente. Il padre era un proprietario terriero benestante che insomma la qualcosa si rivelò fondamentale per l'educazione di Couperin, ovviamente, e suonava il padre come organista presso l'abbazia benedettina di Saint-Pierre. Quindi diciamo figlio d'arte, e tra l'altro almeno tre si sa dei suoi numerosi figli del padre, insomma, quindi fratelli di Couperin, diventarono poi musicisti, quindi insomma proprietario terriero sì, ma dedito alla musica, e che poi passò a almeno alcuni dei suoi figli, che poi come vedremo fecero abbastanza fortuna grazie alla musica. E la formazione appunto di Couperin fu piuttosto importante per l'epoca, soprattutto dove insomma dovevi sborsare diversi soldi, non come ora che invece è tutto gratis, vero? No, per la sua formazione insomma diciamo che i genitori non badarono a spese e effettivamente ottennero ottimi risultati, perché fin da piccolo François Couperin risultò essere un ottimo musicista. Chiaramente al tempo non ci si focalizzava su un unico strumento, poi magari la preferenza sullo strumento avveniva dopo, ma all'inizio almeno ci si orientava su vari strumenti, quindi Couperin imparò l'organo, imparò il clavicembalo, ma anche altri strumenti. Intorno al 1650 Jacques Champion de Chambonnier, che era poi sostanzialmente che divenne il clavicembalista del re di Francia, era in visita a Chaumont-Brie, Lui, François e Charles Couperin, quindi i tre figli Couperin che avevano seguito diciamo, la carriera, beh, ancora non era una carriera, come gli interessi musicali, lo incontrarono Chambonnier perché c'era una festività, lo incontrarono e lo invitarono a un breve concerto composto da uno dei tre fratelli, da Louis. Il cembalista reale fu talmente impressionato che prese lui, quindi fratello di Couperin, e lo portò a Parigi con sé. I fratelli però lo raggiunsero poco dopo e nel 1653 lui, Couperin, quindi appunto sempre il fratello di François, divenne organista, organista, scusate, della chiesa di Saint-Gervais a Parigi. Che poi questa posizione poi divenne la posizione occupata dai membri della famiglia Couperin per 173 anni. Quindi un qualcosa di simile, un po', beh, gli anni erano quelli, anche se la geografia era diversa, ma simile al destino della famiglia di Johann Sebastian Bach. I Bach, come sappiamo, erano organisti un po' per generazioni, si passavano il testimone, diciamo, e ci furono generazioni e generazioni di Bach organisti. Ecco, stessa cosa un po' avvenne per i Couperin. Perché, insomma, appunto, 173 anni sono un bel po', direi. Quindi, sempre lui, come si chiama? Il fratello di François Couperin, divenne il maestro. No, scusatemi, vabbè, rimase lì e piano piano introdusse chiaramente il fratello a quella che era la vita musicale dell'epoca di corte e non solo. Fondamentalmente, François Couperin, oltre a essere un fondamentale compositore, a comporre musica che poi vedremo influenzò moltissimo un po' tutti, non soltanto i musicisti francesi dell'epoca, ma anche del resto d'Europa, divenne molto importante perché si dette alla didattica. Ecco, Couperin divenne il maestro preferito della nobiltà parigina, insegnando il clavicembalo a numerose personalità della società francese dell'epoca. Quindi, abbandonando per un attimo l'organo, piano piano François decise che il clavicembalo effettivamente era il suo. Beh, poi non è che l'ha abbandonato veramente del tutto l'organo, però ecco, insomma, poi è passato alla storia per le sue composizioni per clavicembalo più che altro. E dicevamo, era il maestro preferito della nobiltà parigina e come sappiamo, cioè, chiaramente i nobili che s'annoiavano un sacco e che avevano comunque tra le loro fondamentali cose da imparare la musica, mandavano i propri figli a studiare da compositori importanti, generalmente compositori reali, se eri un nobile serio, o comunque compositori di un certo pregio. Couperin divenne un po' il maestro più importante e più ricercato, e quindi niente, questo gli ovviamente fece sì che, oltre a essere conosciutissimo dai suoi colleghi musicisti, divenne anche poi protetto dagli esponenti della famiglia reale e da altri illustri mecenati, perché evidentemente, insomma, contribuiva molto al mondo culturale, quantomeno musicale, dell'epoca. Appunto, dicevamo che più che come organista poi si dedicò al clavicembalo e tra le opere più importanti che ci sono arrivate di Couperin ci sono le suite denominate Ordre, che sono diciamo dei cicli, si potrebbero chiamare così, paragonabili un po' alle suite strumentali dei compositori barocchi, dell'epoca barocca. Queste suite, queste ordre, furono apprezzatissime dai suoi contemporanei e tant'è che lo imitarono un po' tutti. Divenne un po' un punto di riferimento e un punto da cui partire per comporre nuova musica. non soltanto, come dicevamo prima, dai francesi, ma anche dai tedeschi e dai belgi. E di fatto anche oggi, insieme a Bach, che citavamo già prima, e a Scarlatti, che avrete ovviamente riconosciuto in sigla, era diciamo che anche adesso viene considerato come uno dei più importanti clavicembalisti di sempre. E allora, diciamo che ci ascoltiamo subito un brano. Le Barricades Mystérieuses, che è proprio uno dei di queste ordres di cui parlavamo all'inizio, di queste suite. È importante soffermarsi magari appena appena appena, non voglio togliere troppo tempo all'ascolto musicale oggi, però giusto per darvi un po' dell'orientamento su queste suite. Couperin ha lasciato, tra le altre cose, oltre alle composizioni, ha lasciato anche un trattato di didattica molto importante, che è l'Art de toucher le clavecin, ovvero l'arte di suonare il clavicembalo. In realtà letteralmente sarebbe di toccare il clavicembalo, visto che effettivamente è proprio un tocco quello che avviene verso il clavicembalo, un po' diverso dal pianoforte, che viene un po' più martoriato. E in questo trattato, oltre a esserci chiaramente delle indicazioni precise, molto importanti su come eseguire i suoi brani, ma anche in generale su come si suona il clavicembalo, e ci sono anche un po' alcuni dei suoi pensieri e parte della sua poetica musicale viene spiegata nelle prefazioni. Per le composizioni, perché poi in realtà all'interno del trattato ci sono anche delle composizioni piccole che servivano come pratica, sia per i bambini sia per gli adulti. E come appunto introduzione a queste composizioni si spiegava come si dovevano suonare e il perché lui aveva composto in quella maniera, non soltanto da un punto di vista tecnico e musicale, ma anche da un punto di vista poetico, diciamo. E una famosa frase, oltre al fatto che, tra l'altro, mi stavo dimenticando di dirvelo, ma è curioso, tecnicamente fu tra i primi Couperin a sostenere l'importanza, o perlomeno la possibilità di usare il pollice quando era necessario, cosa che era fino a quel momento assolutamente non tollerato, ecco. Questa diatriba pollice non pollice, poi ora non mi ci addentrerò, anche perché non ho gli strumenti per farlo, però insomma è un qualcosa che chi studia pianoforte e chi clavicembalo conosce bene, perché è una delle differenze fondamentali tra i due strumenti, ma vabbè. Appunto, non ho io le conoscenze tali per poter approfondire, ma dicevamo, quando poi parlava della sua poetica musicale, una delle frasi rimasta più nota è: amo molto più ciò che mi commuove di ciò che mi stupisce. E questo è piuttosto importante perché sicuramente si contrappone un po', anche se non so bene se volutamente, ma in ogni caso si contrappone un po' alla poetica barocca a cui siamo abituati, perché chiaramente si cerca forse un po' di abbandonare lo stupore, la meraviglia, che invece è il dato fondamentale del barocco, per virare un pochino più sulla commozione. Lui in realtà in francese letteralmente dice ciò che mi tocca, quindi la commozione è proprio in questo senso. E quindi niente, non a caso i titoli di molti dei suoi brani descrivono e evocano degli stati d'animo, degli aspetti del carattere, dei sentimenti, delle sensazioni, o anche dei personaggi. Poi in realtà ci sono anche dei personaggi, delle composizioni che parlano in maniera molto ironica e critica di personaggi dell'epoca, però molte delle sue composizioni sono appunto qualcosa che cercano di arrivare direttamente a uno stato d'animo o a un un qualcosa che in qualche modo ti tocchi da vicino, cosa che nel barocco c'era sotto un'altra forma, diciamo, ecco, assolutamente non questa. E questi brani di cui parlavamo sono noti come pièce de caractère, che in un certo senso si distaccano appunto un po' dalla tradizione che c'era stata fino a quel momento. Ci ascoltiamo, ve lo preannunciavo prima, uno di questi ordre che è Les Barricades Mystérieuses, ovvero traducibile in italiano con Le barricate misteriose, anche se la parola barricata non è propriamente quello che vi potrebbe venire in mente, perché nessuno sa veramente a cosa si riferisce questo titolo. Ci sono state tantissime speculazioni intorno a questa suite, che tra l'altro è una delle più famose, anche se è molto, molto piccola. E cioè sì, perché scusate, non è la suite è l'ordre sixième du clavicembalo, la sesta ordre per clavicembalo. Però è un brano contenuto in questa suite e appunto nessuno sa bene a cosa ci si riferisce, e però è talmente evocativa fin dal titolo, in realtà, ma poi lo sentiremo anche nel brano stesso, che è stato usato questo brano come fonte di ispirazione per tantissimi, tantissimi brani a venire, composizioni musicali a venire, ma anche in realtà per film, arte visiva, nella letteratura, cioè in tantissimi hanno usato questo, perlomeno hanno preso spunto da questo brano, soprattutto compositori, registi e quant'altro del XX secolo, ecco. Quindi ci ascoltiamo, direi, subito subito Le Barricades Mystérieuses. In realtà ve ne ho parlato un sacco, ma è un brano piuttosto breve, dura circa 3 minuti, e versione ovviamente in clavicembalo, anche se ahimè molto spesso viene eseguita ormai al giorno d'oggi, come dicono gli anziani, viene spesso suonata, eseguita al pianoforte, cosa che devo dire è molto bella anche al pianoforte, ma è un'altra cosa. Io sono un po' più così tignosa e nerd, quindi vi farò ascoltare la versione per clavicembalo. Ecco, questa era Le barricate misteriose, Le barricades mystérieuses di François Couperin. E con il passare del tempo e con il mutare del gusto della prassi musicale, la produzione di Couperin fu dimenticata, tanto era stata al centro della scena e tanto era stata importante, fu dimenticata nei secoli, come ben sappiamo, e venne riscoperta alla fine del XIX secolo. Nel 1917 Maurice Ravel compose, dedicandogliela, una suite per pianoforte chiamata Le Tombeau de Couperin, costituita da sei brani, questa volta davvero una suite, scritti secondo forme compositive nate come clavicembalistiche, ma la suite viene scritta appunto per pianoforte. Le tombeau de, sì, appunto, Le Tombeau de Couperin viene composta tra il 1914 e il 1917, quindi in piena Prima Guerra Mondiale. E lo vedremo, ogni movimento è dedicato a un amico del compositore di Ravel, appunto, che è caduto in guerra. Ravel aveva 39 anni allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, venne ovviamente arruolato nell'esercito, in artiglieria e guidava camion e ambulanze. Gli toccò questo, insomma, direi che c'era di peggio nella vita. A causa però della sua debolezza fisica, pare, cioè faceva un po' schifo, dai, diciamocelo, come, beh, me lo posso un po' immaginare, dai, sarà stato tutto un po' rachitico, no? Non lo so. Comunque sì, effettivamente era un po' gracilino, messo male e rimase al fronte per poco tempo. Strano, perché insomma al tempo anche, probabilmente arruolavano anche i gatti, ma evidentemente lui faceva così schifo che non lo voleva nessuno, era probabilmente boh, solo un peso, non lo so, mi immagino. E fu la sua fortuna poi di fatto, perché venne rimandato a casa per un principio di dissenteria. Io credo che la dissenteria al fronte durante la Prima Guerra Mondiale fosse proprio il minimo che ti poteva succedere. Insomma, era l'ABC. E però, insomma, gli servì e se la scampò. Non viene riportato che ci fossero state altre cause, altre fortune o gente che si mise in mezzo. Insomma, pare che effettivamente la causa fu proprio questa. Chissà. In ogni caso, lui la scampa e riesce a non morire in guerra, ma purtroppo, ovviamente, gran parte dei suoi amici no. Come sappiamo bene, tutte le guerre sono un carnaio e sono un tritacarne. La Prima Guerra Mondiale, in particolare, beh, è passata alla storia come un enorme tritacarne. Quindi, ovviamente, un po' tutti quelli che conosceva Maurice Ravel sono morti, o comunque una buona parte. Quindi, una volta tornato a casa e scampato un po' il pericolo, diciamo, o almeno quello fisico, decide di comporre questa suite che inizialmente l'aveva iniziata appunto prima dello scoppio della guerra nel 14 e. Beh, alla vigilia, però insomma, prima, e l'aveva pensata boh, come un sostanziale tributo a François Couperin, e però poi, visto i tempi e quello che gli era successo a lui e al mondo tutto, alla fine diciamo che ha una doppia dedica, quella sempre al suo maestro, in qualche modo, Couperin, e anche agli amici morti in guerra. Quindi poi andremo a vedere ogni pezzo, come vi dicevo, ogni movimento è dedicata a un preciso amico di Ravel morto. Se per la. Ci sono due versioni delle Tombeau de Couperin. Una è quella che vi dicevamo, cioè che vi dicevo all'inizio per pianoforte, che è la prima versione, insomma, la versione originaria. Poi esiste anche un'altra versione, la seconda versione, che è una versione per orchestra, dove sono previsti due flauti, oboe, un corno inglese, due clarinetti, due fagotti, due corni, una tromba, un'arpa e archi vari. A seconda scelta, insomma, noi ci ascoltiamo quella per piano, quella originaria e quella più scarna, volendo, che a me personalmente piace di più. Se Ci ascoltiamo tutta, ce l'ascoltiamo per intero, sono 26 minuti divisi in movimenti. Vi leggo i vari movimenti. Sono appunto, come dicevamo, sei, il primo prelude alla memoria di Jacques Charlot. Che trascrisse Mamère L'Oye per pianoforte solo, già questo fa parte della dedica, in Mi minore questo movimento. Poi il secondo movimento in Mi minore, sempre fuga alla memoria di Jean Cropy, alla cui madre Ravel aveva dedicato fra l'altro l'opera L'Heure Espagnole. Poi il terzo movimento, sempre in Mi minore, Forlan, alla memoria del tenente Gabriel Deluc, che era un pittore basco, fra l'altro. Questo era in Forlan, il terzo movimento, Allegretto. Non abbiamo detto gli altri, scusate, non vi ho detto l'andamento. Il prelude, il primo movimento era vif, vivo, il secondo la fuga in allegro moderato, invece Forlan, questo di cui vi ho appena parlato, era sempre in mi minore, Allegretto. Poi il quarto, Rigaudon, alla memoria di Pierre e Pascal Gaudin, due fratelli uccisi dalla stessa granata, in do maggiore assez vif, ovvero molto vivo, vivo assai. Poi c'è il quinto, minuetto, in sol maggiore, allegrato moderato, così penso che sia un allegro moderato, alla memoria di Jean Dreyfus, nella cui casa Ravel si era rifugiato dopo essere stato smobilitato, dopo essere rimandato a casa. E poi l'ultimo movimento, il sesto, una toccata in mi maggiore, vif, vivo, alla memoria di Joseph de Marliave, un musicologo. Quindi ci andiamo ad ascoltare, direi, 26 minuti e poi ci ritroviamo qua, sempre Radio Wombat, ovviamente, e La fuga del gatto. Thank you. Thank you. Ci tornati e vi ricordo innanzitutto, cosa che non ho fatto finora, i social Wombat, quindi il sito wombat.noblogs.org e la casella di posta mail, ovviamente posta wombat chiocciola insiberia.net. Poi fatte queste, eseguite queste cose burocratiche, vi faccio tornare un attimo indietro, perché ritorniamo dal nostro amico François Couperin, che abbiamo celebrato adesso con Le Tombeau de Couperin, suite per pianoforte di Maurice Ravel, ma adesso ci andiamo a riascoltare proprio dalle sue dita, cioè, ovvero, o meglio, dalla sua musica scritta, eseguita poi in fasi ovviamente successive. Qui abbiamo adesso una composizione di quelle che vi citavo all'inizio come divertenti satire, ecco, su fatti e personaggi del momento, contemporanei a Couperin. In particolare quella che ascoltiamo si intitola Les faces de la grande et ancienne menestrandise, ovvero i fasti della grande e antica menestrelleria. una suite per clavicembalo in 5 movimenti. E la cosa interessante è anche che la troverete scritta in francese con le lettere normali, ma in realtà in originale era scritto Menastrandise, era scritta con le lettere X al posto delle vocali. E perché? Perché qui si faceva della satira abbastanza precisa, diretta, verso dei personaggi influenti dell'epoca e Couperin non voleva venire censurato, più che altro non voleva subire ritorsioni, anche se insomma era evidente di chi si parlasse. È una suite, vi dicevo, dal tono ovviamente satirico e di propaganda in qualche modo contro la Menestrandise, che era una corporazione di musicisti che Couperin non poteva vedere. Era in realtà una comunità di strumentisti, menestrelli, chiamati anticamente, e giullari. Fondata nel 1321, da qui insomma si capisce come mai anche in epoca tarda, però ci si riferiva sempre ai menestrelli e ai giullari, fondata appunto nel 1321 nella cappella di Saint-Julien e che però era ancora attiva questa comunità nel 700, all'epoca di Couperin. Questa corporazione, perché poi a un certo punto diventò proprio una corporazione, lo vedremo, era piuttosto influente, non è un caso che Couperin la prenda di mira. In questa suite prende di mira proprio i membri della corporazione come buffoni, saltimbanchi, giocolieri da circo e di fatto questa corporazione, il cui direttore aveva il titolo di Roi des Ménétrières, re dei menestrelli, o Roi des Violons, re dei violini, era appunto, come dicevamo, molto influente a tal punto da possedere una propria strada e una propria chiesa chiamata Saint-Julien de Ménétrier, Saint-Giuliano dei Menestrelli, distrutta durante la Rivoluzione francese. Questa corporazione al tempo cercava cioè al tempo di Couperin, cercava ancora di imporsi sui musicisti per far pagare le tasse e le quote associative, cosa che se poteva tornare, ma anche se insomma mi sa che non tornava neanche all'epoca, ma se poteva tornare al tempo del Medioevo in cui la società era divisa in corporazioni molto influenti, eccetera, nel Settecento non era più tollerato dai musicisti che non volevano assolutamente sottoporsi a queste vessazioni. Però c'era un problema che effettivamente questa corporazione esisteva e buff, no, cioè, non lo so, a me mi ricorda qualcosa, ce l'ho in testa, qualcosa che si ha tipo delle sigle sì, però vabbè, sarà strano, vero? Vabbè, comunque effettivamente era una tassa, una vessazione che alcuni musicisti, molti musicisti non volevano assolutamente pagare. Quando nel 1659, in controtendenza, Re Luigi XIV riconobbe formalmente questa corporazione, allora lì presero campo e decisero, bene, allora ci hanno sdoganato e possiamo spadroneggiare. Tant'è che solo chi pagava la quota di iscrizione alle Menestrandise poteva suonare in pubblico. Anche qui ogni riferimento è puramente casuale. Nel 1693 un gruppo di compositori, fra i quali François Couperin, presenta una protesta a Luigi XIV in nome della libertà artistica. Tra l'altro, anche in seguito, nel 1707, viene presentata un'altra protesta simile. In entrambi i casi ottengono effettivamente che questo strapotere della corporazione venga quantomeno ridimensionato. La suite, i fasti della grande antica menestrelleria, è divisa, come dicevamo, in cinque atti, tanti quanti se ne usavano per le tragedie, quindi c'è un'ironia anche un po' in questo, e fa una caricatura di una riunione della corporazione, entrano un po' tutti, entrano primi dignitari, poi c'è un corteo rumoroso di saltimbanchi e dei loro animali, poi quello misero un po' pietoso degli storpi, e infine la fuga di tutti spaventati dagli stessi animali. Ci andiamo ad ascoltare quindi questa suite. Vi leggo velocemente quello che scriveva appunto lo stesso Couperin come titolo per i vari movimenti. Premier acte, les notables et jurés, menestrenders, ovvero primo atto, i notabili, i giurati e menestrelli. Una breve marcia dal tono canzonatore simboleggiante l'ingresso dei dignitari della corporazione. Durante la ripetizione, la solennità della marcia sembra disturbata da motivi esterni al corteo realizzati dalla mano sinistra. L'andamento è indicato come sans lenteur, senza lentezza. Queste che vi sto leggendo, ovviamente, a parte il titolo, non sono le note dello stesso Couperin, ma sono quelle note che si trovano su la banalissima Wikipedia. Second act, secondo atto, le vieux-le e le gueux, secondo atto i suonatori di Ghironda e i mendicanti. Il secondo atto prende in giro la menestrandise per aver accomunato i musicisti e i mendicanti. È un brano diviso in due parti, chiamato Premier Air des Vieux e Second Air des Vieux. La prima parte è costituita da un basso, chiamato da Couperin sullo spartito Bourdon, il bordone, di note ripetute e legate per tutto il pezzo, a simboleggiare il movimento rotatorio della mano dei ghirondai. Nella seconda parte del brano le note si dimezzano da semiminime a crome e la melodia imita il suono stridente della ghironda. Troisième acte, le jongleurs, sauteurs et saltimbanques avec les ours et le singe. Terzo atto, i giocolieri, saltatori e saltimbanchi con orsi e scimmie. Fanno l'ingresso sulla scena i saltimbanchi con una melodia molto allegra. In questo brano il basso del pezzo precedente si trasforma in terzine, sempre legate per formare un suono continuo a imitazione del caratteristico suono della ghironda. L'andamento è indicato come légèrement, con leggerezza. Quatrième acte, les invalides, ou gens estropiés au service de la grande menestrandise. Quarto atto, gli invalidi o gente deforme al servizio della grande menestrelleria. In questo brano la mano destra, chiamata sullo spartito les disloqués, gli sciancati, e la sinistra, chiamata les boîtiers, gli zoppi, simboleggiano i malati e gli storpi utilizzando note puntate e semicrome. L'ultimo atto, cinquième acte, désordre et déroute de toute la troupe, così parlent ivrognes les singes et les ours. Quinto atto, disordine e rotta di tutta la truppa causata dagli ubriachi, dalle scimmie e dagli orsi. E il gran finale, la mano destra, con scale ascendenti e discendenti e passaggi di bravura, descrive la fuga dei menestrelli, spaventati dagli animali, mentre la sinistra imita la corsa degli zoppi. L'andamento è indicato come très vite, molto vivo. E bene, direi che è tutto. Vi faccio ascoltare questa suite che in realtà è veloce, non vi spaventate. Siamo sui 10 minuti scarsi, 9 minuti e 20. E con quest'ultimo ascolto noi ci salutiamo e vi do appuntamento alla prossima puntata della Fuga del Gatto, spero in compagnia della mia consociata Virgi. E a domenica prossima, ovviamente sempre intorno alle 18 e ovviamente sempre su Radio Wombat. Ciao ciao! François Couperin le Grand, les faces de la grande et ancienne menestrandise, the splendid procession of the great and venerable minstrelsy. Premier acte, les notables et jurés, the notables and the jury march. second acte, les vielleux et les gueux, hurdy-gurdies and beggars. Troisième acte, les jongleurs, sauteurs et saltimbanques avec les ours et les singes. Tumblers, jugglers and tightrope dancers with bears and monkeys. Les invalides ou gens estropiés au service de la grande ministrandise. Invalids and cripples. Cinquième acte, désordre et déroute de toute la troupe causée par les ivrognes, les singes et les ours. Confusion and rout of the whole troop caused by the drunkens and the monkeys and bears.